Potrebbe essere peggio. E come? Potrebbe piovere. La pacchia è finita per lui, non è finita per noi. La pacchia per noi non esiste. Our house is on fire, but I don't want your hope. I want you to panic. L'indigesto. Notizie e approfondimenti in salsa arancione. Lunedì 1 giugno, un buon pomeriggio a tutte e a tutti da Alessandro Canella. Benvenute e benvenuti all'Indigesto, il vostro spazio di informazione e approfondimento qui su 103.100 di Radio Città Fujiko. L'informazione non fa ponte e anche se domani è un giorno festivo, oggi ci siamo. Ci siamo innanzitutto per darvi il numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi, che è il 333-180-9494. E poi per presentarvi quello che è il menù di questa puntata. Dedicheremo ampio spazio a quello che sta accadendo negli Stati Uniti in seguito all'uccisione di George Floyd, questo cittadino afroamericano brutalmente soffocato dalla polizia. Siamo al sesto giorno di rivolte in diverse città degli Stati Uniti e allora approfondiremo quali sono le ragioni di questa protesta così determinata da parte della comunità nera, ma non solo. Dopodiché verremo in Italia e, a proposito di violenze della polizia, ricostruiremo quella che è una lunga storia di battaglie contro appunto la violenza della polizia, contro l'autoritarismo, che è iniziata negli anni 70 e prosegue tuttora. E poi parleremo della riapertura a tutto prevista il 3 di giugno, quindi fra due giorni, ma anche di quello che sta succedendo in Italia, cioè la destra che cerca di appropriarsi della festa della Repubblica del 2 giugno con manifestazioni appunto previste per domani e che cerca di imporre la produttività delle aziende, delle imprese sopra i diritti dei lavoratrici e dei lavoratori. Questa è la riflessione che troviamo nell'analisi settimanale che Luca Alessandrini svolge sulle nostre frequenze. Tutto questo fra poco, dopo un po' di musica. Entriamo nel vivo di questa puntata dell'Indigesto. Per il sesto giorno continuano le proteste e le rivolte negli Stati Uniti dopo l'uccisione di George Floyd, 46enne afroamericano soffocato dalla polizia. La rabbia si è espressa con manifestazioni, presidi, saccheggi e incendi, ma non è mancata la repressione delle autorità, che finora conta 1400 arresti e 3 morti. Il presidente statunitense Donald Trump soffia sul fuoco dal canto suo, perché da un lato ha sostenuto che se le proteste non cessano è legittimo sparare sui manifestanti e dall'altro ha affermato di voler inserire gli antifascisti nella lista delle organizzazioni terroristiche. Fa scappare da ridere, però è così. Ma noi vogliamo concentrarci allora sulle ragioni che portano la comunità nera e non solo a scendere in piazza in modo così determinato, perché probabilmente, anzi sicuramente, l'omicidio di George Floyd è una goccia che fa traboccare il vaso e il problema è a monte sul razzismo istituzionale statunitense. Tra le tante voci che hanno spiegato in questi giorni le ragioni di queste proteste c'è quella di Tamika Danielle Mallory, che è un'attivista, ha coorganizzato la marcia delle donne del 2017, sostiene il controllo delle armi, è femminista e fa parte di Black Lives Matter. E allora direi di ascoltare, ovviamente tradotto, una parte del suo discorso che ha fatto all'indomani dell'uccisione di George Floyd. This is a coordinated activity happening across this nation. And so we, quello che sta succedendo è un'azione coordinata in tutta la nazione. Quindi siamo in uno stato d'emergenza. Le persone nere stanno morendo in uno stato d'emergenza. Non possiamo vedere questo come un caso isolato. La ragione per cui gli edifici stanno bruciando non è solo la morte del nostro fratello George Floyd. Gli edifici sono in fiamme perché la gente qui nel Minnesota sta dicendo alla gente a New York, alla gente della California, alla gente di Memphis, alla gente in tutta la nazione: adesso basta. And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people. E non siamo noi i responsabili del disagio che viene inflitto alla nostra gente dal governo americano, dalle istituzioni e da coloro che si trovano in posizioni di potere. Non mi interessa se stanno bruciando Target, perché Target dovrebbe essere nelle strade con noi, chiedendo la giustizia che la nostra gente merita. Dov'era AutoZone quando Philando Castile fu ucciso in una macchina, che è quello che AutoZone rappresenta? Dov'erano? Se non venite in difesa della gente, non sfidateci. Non sfidate i giovani e le persone che sono frustrate e istigate da gente pagata da voi. State pagando istigatori tra la nostra gente per le strade, che tirano pietre, rompono finestre e bruciano edifici. E i giovani stanno rispondendo a questo. Sono arrabbiati e c'è un modo semplice per fermarli. Arrestate i poliziotti. Processateli. Processate i poliziotti, non solo alcuni di loro. Non solo qui a Minneapolis. Processateli in ogni città in America in cui la nostra gente viene assassinata. Processateli dappertutto. Questo è il punto. Processate i poliziotti. Fate il vostro lavoro. Fate quello che dite essere la natura di questo paese. La terra della libertà. Non c'è libertà per le persone nere. E siamo stanchi. Non venite a parlarci di saccheggio, siete voi i saccheggiatori. L'America ha saccheggiato le persone nere, l'America ha saccheggiato i nativi americani fin dall'inizio. Saccheggiare è quello che voi fate, noi lo abbiamo imparato da voi, abbiamo imparato la violenza da voi, la violenza è ciò che abbiamo imparato da voi. Quindi se volete che siamo migliori, maledizione, siate migliori. NWA court is in full effect. Judge Dre residing. In the case of NWA versus the police department, prosecuting attorneys are MC Ren, Ice Cube, and Easy motherfucking E. Order, order, order. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help your black ass? You goddamn right. Won't you tell everybody what the fuck you gotta say? Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad 'cause I'm brown, and not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit 'cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on and thrown in jail. We can go toe to toe in the middle of a cell. Fucking with me 'cause I'm a teenager with a little bit of gold and a pager. Searching my car, looking for the product, thinking every nigga is selling narcotics. You'd rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a Benzo. Be the police out of shape, and when I finish, bring the yellow tape to tape off the scene of the slaughter. Still getting swole up bread and water. I don't know if they fags or what. Search a nigga down and grabbing his nuts. And on the other hand, without a gun, it can't get none. But don't let it be a black and a white one, 'cause they'll slam you down to the street top. Black police showing out for the white cop. Will swarm on any motherfucker in a blue uniform just 'cause I'm from the CPT. Punk police are afraid of me, huh? A young nigga on the warpath, and when I finish, it's gonna be a bloodbath of cops dying in LA. Yo, Dre, I got something to say. tra le altre voci che si sono alzate in questi giorni per spiegare le ragioni delle rivolte negli Stati Uniti, c'è anche quella di Kareem Abdul-Jabbar, ex stella della NBA, quindi ex giocatore di basket, che sul Los Angeles Times ha pubblicato un articolo che spiega bene cosa significhi essere neri negli Stati Uniti. Direi che ce lo andiamo a ascoltare, anche in questo caso la traduzione, senza aggiungere altro, perché dice tutto lui. Qual è stata la vostra prima reazione quando avete visto il video del poliziotto bianco inginocchiato sul collo di George Floyd, mentre lui con voce rauca diceva «Non posso respirare»? Se siete bianchi, avete probabilmente mormorato, disgustati «Oh mio Dio!» mentre scuotevate la testa davanti a un'ingiustizia crudele. Se siete neri, probabilmente vi siete inginocchiati. Avete imprecato, forse avete lanciato qualcosa per aria e sicuramente avreste voluto farlo mentre gridavate no di nuovo cazzo. Poi vi siete ricordati dei due vigilanti bianchi accusati dell'omicidio di Ahmaud Arbery mentre faceva jogging nel loro quartiere e di come se non fosse stato per quel video uscito qualche settimana fa l'avrebbero fatta franca e di come quei poliziotti bianchi a Minneapolis avessero detto che Floyd stava resistendo all'arresto salvo poi essere smentiti dai video delle telecamere di un negozio e di come il poliziotto sul collo di Floyd non fosse esattamente lo stereotipo di un redneck arrabbiato, ma un ufficiale che sembrava calmo e senza pietà. La banalità del male fatta a persona. Vi rendete conto che non è semplicemente un presunto criminale nero che viene preso di mira, ma tutti i neri. Vi iniziate a chiedere se non debbano essere tutte le persone nere a indossare delle body cam e non i poliziotti. Cosa vedete quando vedete le persone nere che protestano arrabbiate fuori ad una stazione di polizia con il pugno alzato? Se siete bianchi probabilmente pensate beh sicuramente non mantengono il distanziamento sociale. Poi vedete le persone nere che saccheggiano i locali e pensate questo fa sicuramente male alla loro causa. Poi vedete la stazione di polizia che va a fuoco, scuotete il dito e pensate la questione sta andando nella direzione sbagliata. Non avete torto ma non avete nemmeno ragione. La comunità nera è abituata a quel razzismo connaturato nei sistemi dell'istruzione, della giustizia, del lavoro e per questo siamo impegnati in tutte quelle attività che puntano alla sensibilizzazione politica e dell'opinione pubblica. Scriviamo analisi articolate piene di significato su The Atlantic, spieghiamo alla CNN lo stato di devastazione continua che viviamo, supportiamo i candidati che promettono il cambiamento ma praticamente non cambia nulla. Il Covid-19 ha amplificato le conseguenze di tutto questo, i nostri tassi di mortalità sono significativamente più alti di quelli bianchi. Siamo i primi a perdere il lavoro e restiamo a guardare indifesi, mentre i repubblicani cercano di non farci votare. Proprio ora che il ventre molle del razzismo istituzionale emerge chiaramente, sembra che sia aperta la stagione della caccia contro i neri. E se mai ci fosse stato qualche dubbio, il presidente Trump, con i suoi recenti tweet, ha confermato l'orientamento istituzionale nel chiamare criminali manifestanti e nel ritenere giusto che si possa sparare saccheggiatori. Certo, spesso le proteste vengono strumentalizzate da qualcuno che ne trae profitto, come accade quando i tifosi celebrano la vittoria della loro squadra dando fuoco alle auto, distruggendo i negozi. Io non voglio vedere i negozi saccheggiati o palazzi bruciare, ma la comunità nera vive da anni in un palazzo ardente, venendo soffocata dal fumo, mentre le fiamme si fanno sempre più vicine. Il razzismo in America è come la polvere nell'aria, sembra invisibile se ti sta soffocando fino a quando non permetti al sole di entrare. Allora ti accorgi che è tutto intorno a te, finché saremo in grado di mantenere viva quella luce, potremo fare pulizia e spazzare via quella polvere ovunque si posi. Ma occorre rimanere vigili, sapendo che resterà sospesa nell'aria. Pertanto forse la maggior preoccupazione della comunità nera in questo momento non è se chi protesta sta a uno o due metri di distanza dall'altro, o se alcune anime disperate rubano delle magliette o persino mettono a fuoco una stazione della polizia. Piuttosto è se i loro figli, mariti, fratelli e padri saranno uccisi da poliziotti o aspiranti tali semplicemente perché si trovano in strada a camminare, a correre o a guidare. O se essere nero vuol dire rifugiarsi a casa per il resto della loro vita perché il virus del razzismo che infetta la nazione è più letale del Covid-19. Ciò che dovreste vedere quando volgete lo sguardo verso i neri che protestano nell'epoca di Trump e del Covid sono persone arrivate al limite non perché chiedono che siano riaperte, aperti i bar o i centri estetici, ma perché vogliono vivere, vogliono respirare. E la cosa peggiore è che si pensa che noi dobbiamo giustificare la nostra indignazione ogni volta che il calderone ribolle. Circa 70 anni fa Langston Hughes chiedeva nella sua poesia Harlem cosa succede ad un sogno rimandato. Forse affonda come un carico pesante oppure esplode. 50 anni fa in Inner City Blues Marvin Gaye cantava: il modo in cui manipolano la mia vita mi fa venire voglia di urlare. E oggi, nonostante i discorsi appassionati di ben intenzionati leader politici, bianchi o neri che siano, vogliono toglierci la voce, rubarci il respiro. Dunque ciò che vedete quando volgete lo sguardo verso i manifestanti neri dipende dove vi trovate. Se siete in quel palazzo ardente o piuttosto lo guardate dallo schermo della TV con una vaschetta di popcorn mentre attendete l'inizio del prossimo episodio di NCIS. Non voglio che si arrivi a giudizi affrettati. Ciò che mi interessa è che si vada spediti verso la giustizia. Kareem Abdul-Jabbar. Torniamo insieme all'Indigesto e proseguiamo questo discorso spostando un attimo il focus dal razzismo della polizia americana e parlando di violenza della polizia in generale. È un problema che riguarda, si può dire, tutto il mondo e che in Italia ha avuto diversi momenti in cui c'è stato chi ha cercato di opporsi all'autoritarismo e alla violenza della polizia. È una storia che comincia ormai 50 anni fa, nei primi anni 70, con la battaglia per l'obiezione di coscienza al servizio militare e la democratizzazione delle forze armate portata avanti dai proletari in divisa. Noi, per farci raccontare questa storia, abbiamo interpellato Valerio Minnella, che oltre a essere una celebre voce di quella che fu Radio Alice, fu uno dei primi obiettori di coscienza che per la sua scelta pagò con il carcere. Sentiamo le sue parole. Parliamo dell'obiezione di coscienza, della lotta antimilitarista, anche se negli anni 70 le istanze libertarie non erano solamente nel campo militare, però quella è stata sicuramente una lotta speciale perché ha focalizzato il problema dell'autoritarismo e delle forze armate, delle forze di polizia in quello che sono state le lotte, insomma. Io nel 70 ho fatto obiezioni di coscienza e sono stato un po' il padre, posso dire, uno dei padri, uno dei tanti padri dell'obiezione di coscienza in Italia, in quanto sono stato il primo a fare obiezioni di coscienza pubblica e non personale, cioè l'obiezione di coscienza fino a quell'anno lì era un atto individuale di persone che non si presentarono o che si rifiutavano di vestire la divisa, ma lo facevano individualmente, atti straordinari, ma nessuno ne sapeva nulla, insomma. Io ne feci